Srebrenica non passano tante macchine. Non è come nei film americani che a volte fanno vedere alla televisione. La mamma assicura che qui da noi tutto è più sicuro e pulito grazie a Tito. E a me un po' dispiace che sia morto quando avevo solo 3 mesi e non ho potuto conoscerlo. Però abbiamo le sue foto in casa ed è un po' come un nonno. Siamo vestite uguali. Pantaloncini verdi e maglietta gialla ci vestono sempre uguali e tutti ci scambiano per sorelle gemelle. Entrambi abbiamo i capelli corti e biondi. Lei è un po' più scura di me e ha gli occhi azzurro-grigi. Io ho capelli quasi bianchi e gli occhi scuri scuri. Abbiamo appena finito di tirarci i capelli e di graffiarci la faccia. Le abbiamo prese dalla nonna e abbiamo fatto pace. Il libro parte con Vanessa, appunto, perché è mia cugina, perché è uno di quegli affetti più forti che ricordo ancora della mia infanzia. E parte con lei perché c'era questo sentimento quasi morboso che dava una certa continuità e che io da bambina pensavo ci sarebbe sempre stata. Quello che io racconto è qualcosa di bello della nostra infanzia. E c'è quell'ultima frase che dice: vorrei vivere sempre con Vanessa, e così sicuramente sarà. Che in un certo modo, a livello di scrittura, apre già una cesura, perché uno capisce che effettivamente ci sarà qualcosa di drammatico, perché una frase così messa. Perché poi è la mia, diciamo, prima perdita, nonostante lei sia viva, ma è la perdita proprio della quotidianità, della vita insieme, del poter pensare a un futuro insieme con lei. E quindi Vanessa assume questa importanza all'interno del libro, come un legame col passato, un passato che non c'è più perché non possiamo tornare ad essere le ragazzine del racconto che apre il libro perché siamo diverse. Poi ricorre spesso nel corso del libro questa lontananza che la guerra poi ha creato tra noi, che non è tanto spaziale, ma è proprio a livello culturale, come siamo poi cresciute a 2000 km di distanza una dall'altra. Per cui da questo lato lei è l'apertura perfetta del libro, secondo me, perché è insieme un mio feto, ma anche la rappresentazione di Elvira bambina. La punizione consiste nel restare in giardino mentre tutti gli altri bambini sono in strada a giocare. Sì, mi piace essere in punizione con lei, così non c'è nessun altro a portarmela via. Ho sempre un po' paura che si trovi amiche migliori di me. Ho sempre paura che mi lasci da sola e non giochi con me. Io e Vanessa viviamo in un mondo parallelo, tutto nostro, dove nessuno può entrare. Abbiamo segreti che solo noi conosciamo. Quando per un certo periodo lei mi aveva abbandonato per giocare con gli altri bambini, io stavo sempre in casa a guardare i film in bianco e nero sui partigiani che si buttavano dagli aerei per liberare le città dai nazisti. È stato allora che ho iniziato a fare un sogno quasi tutte le notti. Era sempre uguale, io mi svegliavo, scendevo giù per le scale a casa della nonna. Fuori c'era il sole e sentivo che Vanessa rideva. Allora aprivo la porta e nel giardino lei e Hitler facevano una torta di cemento. Io un po' mi spaventavo perché nei film su Tito Hitler era sempre quello che voleva ucciderci tutti. Chiamavo Vanessa per salvarla, ma lei si girava, mi guardava ridendo in modo cattivo e mi diceva: Tu non puoi giocare con noi. Vorrei vivere sempre con Vanessa, anche da grandi. Vorrei che facessimo sempre tutto insieme. Così sicuramente sarà. Ma beh, infatti raccontare la guerra per un bambino di 12 anni, cioè vivere la guerra per un bambino di 12 anni non è come viverla per mia madre, cioè mia madre era comunque in ansia per farci sopravvivere, per darci da mangiare, eccetera. Io invece vedevo la guerra come una cosa divertente che all'improvviso aveva tolto tutta la nostra quotidianità, cioè praticamente noi ci siamo trovati ad avere una vita completamente scombussolata, per cui da che si andava a scuola, da che si doveva assolvere certi compiti normali di una vita normale, a che Non si andava più a scuola, si poteva giocare tutto il giorno, giocare tra virgolette, perché in realtà non si poteva nemmeno giocare visto che c'erano i bombardamenti. Però la cosa divertente poi diventava andare a giocare durante i bombardamenti, raccogliere i pezzi di granate. Il periodo di guerra passato in Bosnia ha accentuato il mio attaccamento alla natura. Non è un amore ambientalista il mio, è molto più semplice e primitivo. La natura era diventata quella cosa che mi proteggeva. Strisciavo nell'erba alta per non farmi vedere dai serbi mentre andavo a prendere l'acqua. Mi arrampicavo dall'albero di ciliegie e dall'alto, nascosta dai rami dei frutti. Mangiavo e li vedevo al di là della collina. Gli alberi riparavano il nonno mentre urlava: portatemi gli occhiali che non ho visto bene dove è caduta quest'ultima granata. E la nonna, incazzata, rispondeva: che tu sia maledetto, vuoi che ti cada in testa? Ma il nonno non l'ascoltava. Entrava in casa scocciato a prendersi gli occhiali da solo e aveva quell'espressione del tipo: mi state facendo perdere la parte più importante dello spettacolo. Sai, la natura era bella, anche contaminata da quei metalli, quei piccoli o grandi pezzi di granate caduti senza essere stati mortali per nessuno. Strisciando nell'erba li vedevo e li raccoglievo per farne una collezione a casa. Erano di mille colori diversi e forme bizzarre. Ne avevo di bellissimi a tonnellate. Avrei potuto mettere su una fabbrica di riciclaggio di granate. La notte era meravigliosa, illuminata dalle luci dell'esplosione. All'orizzonte qualcosa si accendeva, il cielo si rischiarava e per un attimo sembrava giorno, e le montagne erano ancora più nere e si stagliavano contro il cielo, mentre tutti, a bocca aperta, ammiravamo quella visione. Immediatamente dopo si tornava a dire: guarda tu che animali, ci stanno distruggendo anche la natura. Sì, dopo si diceva così, ma quelle visioni lasciavano senza fiato tutti. Sdraiata sul pavimento leggevo e giocavo con i rumori della guerra. Il botto iniziale significava che era stata lanciata la granata. Poi c'era il fischio angosciante dell'ordigno in volo e nella mente mi canticchiavo: chissà dove cadrà di qua o di là, chissà dove cadrà. Se cadeva vicino, il botto ci distruggeva le finestre e nessuno diceva niente per un po'. Se cadeva lontano, gli adulti iniziavano a dire: ai, che sei caduta sulla casa di Fatima. No, lì c'è la casa di Muio. No, la casa di Muio è giù verso la farmacia. Vabbè, sarà caduta dall'azzurra. Stavano lì magari per un'ora a discutere. Poi il nonno se la svignava e andava a vedere. A volte, quando i serbi erano particolarmente in forma, i bombardamenti duravano tutta la notte. Il botto, il fischio, le bombe, l'orizzonte, esplosione, ammirazione, il botto, il fischio, la granata, le bombe. Il cielo, le granate, l'esplosione, il botto, il fischio, il botto, il fischio. Chissà dove cadrà, chissà. Allo stesso modo della guerra è stato così anche il campo profughi. Il campo profughi eravamo tantissime persone con lo stesso identico problema, quello di essere degli sfollati che stavano lì una vita a prestito praticamente, perché nessuno lavorava, nessuno faceva niente. Però eravamo al mare, per fortuna eravamo al mare in un campo profughi sulla costa croata, e anche lì quindi la vita si trasformava in gioco, in divertimento, in praticamente 6 mesi di spiaggia, sole, basta. Per cui io ogni tanto pensavo: speriamo che la guerra non finisca così presto, perché magari era giugno, dicevo vabbè, speriamo che duri fino a settembre, così poi inizia brutto tempo e posso tornare a casa. Essendo così piccoli, è comunque ancora poco inclini a pensare alla tragedia, perché poi c'è anche da dire che nella mia famiglia non era ancora morto nessuno, per cui la guerra sembrava una cosa che per quell'annetto ci aveva tolto dalla quotidianità noiosa, stavamo facendo altro, però c'era questa certezza assoluta, naturalmente, che poi finito, c'erano sempre i trattati di pace che si stavano firmando, finito la guerra, saremmo tornati tutti a casa e sarebbe stato tutto normale, uguale come prima. Solo scomparire nelle foglie gialle, tra i rami secchi, dentro la terra gelida, solo fuggire per i boschi scuri verso l'orizzonte bianco, solo perdermi nelle luci soffuse tra braccia insicure, dentro gli occhi ubriachi, e cambiare il taglio di capelli, la camminata, l'anello al collo. Ho sempre amato stare su autobus e treni, perché hanno il potere di fare la più bella magia che esista, annullare il mio essere qui, ora, il mio essere quello che sono. Quando sono su uno di questi due mezzi, sento di non essere da nessuna parte, potenzialmente ovunque. Non sono nessuno e non ho alcuna funzione per gli altri. Non vi sono esseri che si aspettano qualcosa da me. E io potrei essere qualsiasi cosa decida di voler essere. È questa la ragione per la quale mi piace viaggiare, da sola. A 12 anni, al confine per entrare in Croazia dalla Bosnia, i soldati ci tennero per 2 ore in dogana e quando decisero di lasciarci passare, cominciarono a sparare. È vero che entravamo da clandestini! Quanti siete? Cosa portate? Un fiorino. Ma è altrettanto vero che gli avevamo pagati fior di soldi per farci entrare. L'anno dopo, a Spalato, alla dogana per imbarcarci per l'Italia, i poliziotti croati ci strapparono i documenti e ci dissero che Quanti siete? mai più avremmo potuto mettere Cosa piede portate? sul suolo croato. E io sono morta di Ma paura quanti quel siete? giorno. Intanto che discutevano se lasciarci imbarcare o meno, sono morta di paura non perché non vedessi l'ora di andare in Italia, in realtà io non ci volevo nemmeno andare in Italia. Volevo restare lì tra la gente che parlava la mia lingua. Quanti siete? Volevo restare lì, vicino a Barba Branco e Teta Dalma. Comunque, le dogane restarono un problema anche nei paesi civili. In Inghilterra, nella Repubblica Ceca, in Germania, in Polonia, in Austria, ovunque io andassi avevano qualcosa da ridire. E sul passaporto, e sul visto, e sul permesso di soggiorno. Quanti siete? Un fiorino. Per cui durante la guerra proprio non c'era la sofferenza, non c'era l'idea, oddio, adesso, ecco, adesso per sempre sarò un profugo, oppure oddio, mi è morto qualcuno perché non c'era ancora morto nessuno. E certo, poi non c'era l'energia elettrica, ad esempio, mentre eravamo in guerra, per cui non potevamo neanche vedere che cosa succedeva nelle altre città, per cui non vedevamo la gente che moriva o cose così. Vivevamo in un piccolo microcosmo che era fatto di qualche famiglia messasi insieme, che stava nel rifugio insieme, e i bambini che vivevano tutti insieme, che si divertivano e potevano stare. Non c'erano i genitori che ti costringevano, non so, andare a letto presto, niente. Si erano scardinati tutti i ruoli genitore-figlio, ruoli sociali, ruoli familiari, per cui sembrava una cosa molto divertente. E il problema, appunto, è iniziato dopo, è iniziato già col fatto di venire in Italia, perché era già un allontanarsi di più, perché la Croazia è lì a 2 ore, invece l'Italia era. Cioè, ti sentivi profugo in modo più serio. Per cui è assurdo, ma io vivevo molto meglio la guerra che l'arrivo in Italia, ad esempio. Sembra strano e a volte quando lo dici alle persone dicono: ma come, non eri contenta di scappare a tutte queste cose? Io dicevo no, io preferivo stare là, quindi. Si srotola davanti a me come una coda di serpente. Il terrore. Il terrore di scoprire la malvagità della verità. Ossessione. Ossessione. Ossessione. La lista è lunga, scorrono le pagine infinite, quasi 8.000 nomi. Ci sono anche loro, mi soffermo. Vorrei vedere qualcosa uscire da quei nomi, non so, qualche informazione segreta, qualcosa in più. Ho come la sensazione di essere alla fine di una strada e non so se il dopo è un abisso o se c'è una nuova via. Guardo i nomi e il pensiero corre, le mani tremano, so che arriverà. Ho È un anno che non l'ho più, ma ora sento che sta per arrivare. Conficco le unghie nelle cosce per concentrarmi su un dolore fisico, così mi passa. Respiro lentamente, sistemo la scrivania con noncuranza, mi calmo, sento di poter andare avanti. Articoli, pagine di giornali, pagine di libri, atti del tribunale. Ciò che ci è dato sapere sulle morti della nostra gente e ciò che prima hanno saputo giudici e giornalisti e poi l'hanno reso noto. Non vi è nulla di intimo nelle nostre morti, nessun ricordo o immagine personale, alcuna storia individuale. Le ossa si sono mescolate tra loro nelle fosse comuni e nei passaggi da una fossa comune all'altra. Le ossa sono numerate. Bari, 79, 8, 65, 6, 5. Le pare leggere, 23, come se si seppellissero 85. Gli spiriti. 85. È stato inutile leggere tutta quella roba e torturarmi. Non so molto di più di quello che sapevo prima. So in parte ricostruire l'ultima o una delle ultime giornate di mio padre e di mio zio. 11 luglio 1995. Non so se abbiano avuto qualcosa da mangiare quel mattino. Forse non avevano nemmeno dormito la notte precedente. I serbi erano lì fuori dalla città. Nel giro di poche ore sarebbero entrati e sarebbe stata la fine. Che fare? Fidarsi dei caschi blu? Tentare la via attraverso il bosco? Rimanere lì e sperare che il mondo non sia sempre così indifferente? Tutte e tre le possibilità si rivelarono sbagliate. Chi degli uomini si salvò quel giorno? Fu solo per un fatto fortunato e non perché venne risparmiato. Mio zio si fidò solo delle sue forze e decise di andare per il bosco. Beh, magari se non fosse stato per 3 anni e mezzo di guerra, fame ed epidemie, le forze l'avrebbero sostenuto di più. Invece aveva perso 60 kg nel giro di pochi mesi e la camminata per il bosco non poteva finire bene. Circa 80 chilometri fino al territorio libero. Non so per quanto abbia resistito. Non so com'è arrivata la fine. E non so quanta paura abbia avuto dentro mentre arrivava. Un mese dopo la caduta di Srebrenica, un signore ci raccontò di aver visto tra migliaia di cadaveri anche quello di mio zio. Il signore aveva bisogno di scarpe e le ha tolte proprio a lui. Non ci abbiamo creduto mai. Invece no, alla fine poi diventa chiaro che tutte le persone che sono scomparse l'11 luglio sono morte dall'11 al 19 luglio, quindi in 8 giorni sono state fatte le esecuzioni di tutte queste persone che in un primo momento sono state sepolte nelle fosse comuni molto grandi. Queste fosse comuni, che verranno poi chiamate primarie, verranno in seguito aperte dai serbi per spargere, cioè comunque per non far sì che si trovi il corpo del reato, perché intanto che non c'è il corpo del reato non c'è neanche il reato, quindi vengono riaperte e con delle ruspe si scavano le ossa e vengono portate in altre fosse comuni più piccole. Tutto questo fa sì che un corpo venga trovato in 2-3 fosse comuni diverse. Aumenta comunque la difficoltà di riconoscimento, perché per riuscire a ricostruire un corpo passa molto tempo, per cui 13 anni dopo, perché il genocidio è accaduto nel 95, 13 anni dopo comunque più della metà dei corpi non sono ancora stati trovati o identificati. Forse sarebbe stato meglio saperlo subito. Se avessi preso coscienza della morte di mio padre e di mio zio in un colpo solo, con uno shock tremendo, forse adesso sarei guarita. Invece la notizia della morte non è mai arrivata e ha lasciato posto alla speranza, quella primitiva necessità di credere in un miracolo. Dicono che la speranza sia l'ultima a morire, ma non è vero. Per me è morta da un pezzo. Eppure la notizia della morte non è mai giunta. Nessun certificato, niente condoglianza, nessun periodo di lutto, o forse il lutto non ha mai avuto fine. Per più di un anno ho avuto il terrore di tornare a casa da scuola. Ogni singolo giorno aprivo la porta piano per udire i rumori in casa, per sentire se la mamma stesse piangendo oppure no. Ogni volta che entravo e la vedevo piangere, mi dicevo: hanno chiamato per dire che sono morti. Ma non era così. La mamma piangeva, ma piangeva perché dentro non sognava più, perché le avevano rubato anche il sogno di un possibile ritorno del papà. Cercavo di immaginare soluzioni alternative alla morte. Credevo che pure i soldati serbi avessero preso in considerazione qualche altra modalità che non fosse lo sterminio. Arrivai a convincermi che il papà e lo zio erano vivi, magari prigionieri da qualche parte. No, meglio ancora, in qualche piccolo paese da dove non si potevano muovere, e che una notte, dal nulla, sarebbero arrivati a bussare alla nostra porta. La mente è spettacolare. Arriva a farti credere ciò che vuoi credere. Così, per molti mesi mi svegliai e tutte le notti andavo e sentivo bussare alla porta. Uscivo e guardavo e ti cercavo, ma non c'era mai nessuno. E nessuno arrivò mai. Noi per un anno continuiamo a credere che esistono dei campi di concentramento, di lavoro, delle prigioni dove vengono tenute tutte queste persone. Ogni tanto è successo per 3-4 mesi che ogni tanto qualche sopravvissuto che andava attraverso i boschi riuscisse ad arrivare sul territorio bosniaco e che raccontasse cose allucinanti, ma nessuno, cioè comunque noi non ci credevamo, dicevamo vabbè, ma magari lui ha scelto quella strada e lì è andato così, mentre mio padre comunque è andato giù all'ONU, quindi lui avrà un altro destino sicuramente. Mio padre ha preso un'altra decisione, lui si è fidato dell'ONU, ma d'altronde lavorava per loro come traduttore, quindi con il suo zaino si è incamminato verso la loro base, appena fuori Srebrenica. Da quello che mi hanno raccontato pare fosse fiducioso fino alla fine. Teta Zà dice che lo vede ancora, come se fosse ieri. Lo caricano su un camion e lui, timidamente, alza la mano in segno di saluto. Assicura che ha sorriso. Il libro è emblematico perché secondo me è un album di fotografie, quel libro. Sulla copertina c'è l'unica fotografia che io ho. Di tutta la mia infanzia, dagli anni 0 agli anni 13. E dentro, siccome non ci sono le fotografie, io non ce l'ho più, ricostruisco, cioè sono io che con i miei flashback, eccetera, faccio delle fotografie della mia vita. È un album di fotografie che naturalmente nessuno vorrebbe avere, perché di solito uno si fa solo le fotografie belle, perché non ti fai le fotografie dei momenti disperati, invece lì no, c'è un album di fotografie vero, insomma. Stavo per impazzire davvero. La mia mente, la mia mente non faceva più pensieri logici, ma si diluiva in nervature incomprensibili e dolorose. Avevo il mal di testa e la tachicardia, mio Dio, com'ero diventata paranoica. Non sapevo più pensare. Vivevo e mi consumavo nella paranoia. Camminavo per le strade deserte della città senza paura per i pericoli, ma solo con l'angoscia per la mia interiorità frammentata. Mi concentravo sulle vetrine delle scarpe, leggevo le locandine degli spettacoli teatrali e cinematografici solo per cercare di riportare la mente indietro e allontanarla dalla follia corrosiva. Mi mise a correre, lo sforzo fisico mi salvò. La percezione della fatica nelle gambe e il respiro affannato mi riportarono alla materia, al mondo palpabile. Continuai a correre fino a casa e quando entrai mi parve di poter dormire. Leone, un sabato da veri leoni, anche nel piacere dello shopping in cui la spesa è incontrollata. E poi la sera, Saturday Night Fever, fiammeggiante, travolgente, vincente. Siete the best, gli unici. Vietato stare chiusi in casa, ma non esagerate in esibizionismi. Io ho pianto seduta sulla sedia. Ho bevuto, fumato e fissato il vuoto. Ho buttato bicchieri contro i muri, poi ho raccolto i vetri. Ho riletto le vecchie lettere, alcune le ho buttate via. Ho riguardato l'unica foto di famiglia mentre buttavo via foto inutili. Ho camminato avanti e indietro per casa in cerca di una soluzione. Ho lottato per la salvezza, ma ho continuato a danarmi. Ho avuto paura, molta paura di me stessa e mi sono rifugiato. rifugiata in altri, sentendomi fuori, sempre fuori, sempre fuori, le scarpe fuori, le locandine, il cinema. E quindi le donne, insomma, le più carine vengono violentate, le altre vengono spedite su degli autobus nella zona sotto il controllo dei bosniaci, mentre tutti gli uomini che hanno dai 12 ai 70 e passa anni vengono fermati, per, si dice, per un'identificazione, e sembra che poi verranno rilasciati nel momento in cui si riconoscerà che non hanno fatto niente. Quindi la maggior parte degli uomini, da quello che so, anche mio padre, stava tranquillo perché diceva: tanto vabbè, non abbiamo fatto niente, una volta fatto la certificazione vedranno che non abbiamo fatto niente. E purtroppo già dopo un paio di ore le donne che aspettano di essere portate verso la Federazione Bosniaca sugli autobus iniziano a sentire gli spari dietro le fabbriche, perché il regolamento dei conti, diciamo, inizia già lì dietro le fabbriche. Poi la maggior parte di questi uomini vengono fatti salire su dei camion, su degli autobus, portati in altre direzioni e non quelle dove vengono portate le donne, e diciamo, a livello di informazione, queste sono le ultime informazioni che si hanno di queste, si parla dalle 8.000 alle 10.000 persone. La dolce cara Teta Zà. La trovai seduta per terra. Tremava e parlava da sola. Di quel pezzo di donna attiva ed energica non era rimasto più nulla. Mi sedetti per terra e la abbracciai. Loro non ci sono più. Loro non ci sono più. Non ci sono più. Non ci sono più. Continuava a ripetere. Io penso solo a quel giorno. Tuo padre, oh, tuo padre e mio Chico hanno preso i loro zaini e hanno detto: andiamo giù dove c'è l'ONU. Da un giorno in una notte ci bombardavano i serbi. Avevano conquistato già tutta la parte sud della città e rimaneva solo questa nostra strada per spingersi in giù di 3 o 4 chilometri fino ai caschi blu. Tanti sono scappati per i boschi e io gliel'ho detto: scappate per i boschi, giù vi uccideranno. Ma loro, oh, loro cocciuti, si fidavano degli europei. Eravamo tutti qui, più di 15.000 persone, e le granate ci cadevano in mezzo, e vedevamo gente morire, pezzi di carne che volavano. Ci siamo spinti giù verso l'ONU. Siamo rimasti lì mentre arrivava l'esercito serbo. È arrivato anche Mladic. C'erano le telecamere e ha fatto finta che non sarebbe successo niente. Intanto che aspettavamo, ho visto, mentre sgozzavano un neonato perché piangeva e la madre che lo teneva in braccio è impazzita. Figlio bello audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa e di stuprare in corsa. E sei andato giù alla fabbrica. Hai visto? Hai visto che disegni hanno fatto anche quegli animali dell'ONU? Siamo rimasti lì tutto il giorno in un recinto. Mladic e quelli dell'ONU brindavano la conquista di Srebrenica. Mladic e quelli dell'ONU brindavano la conquista di Srebrenica. E quelli dell'ONU brindavano la conquista di Srebrenica, mentre noi eravamo nel recinto e i soldati separavano gli uomini dalle donne. Poi hanno iniziato a portar via qualcuno, li portavano dietro alla fabbrica e noi sentivamo solo gli spari. Poi hanno iniziato a caricare gli uomini sui camion. Ho visto tuo padre, oh, ho visto tuo padre, mio marito, mio figlio salire, mi salutavano, sorridevano, sorridevano, sorridevano, sorridevano, mi salutavano, sorridevano, sorridevano. sorridevano. Credo che la bossa stia toccando da un 20 anni a questa parte il peggio a livello di rappresentazione politica dei personaggi politici. Quindi è successo già in Bosnia, è successo che si togliesse qualcuno dal piedistallo, si togliessero di casa i ritratti di qualcuno, quel qualcuno è Josip Broz Tito, no? E se li toglie, li hanno tolti per mettere quelli di adesso, no? E ho notato una cosa divertente invece, proprio una cosa per chiudere. In Bosnia noi non abbiamo il giorno della Repubblica, no? Perché i serbi vogliono un giorno e i musulmani ne vogliono un altro, i musulmani croati. E quindi non c'è un giorno della Repubblica, non c'è niente che unisca questo paese che praticamente è diviso tra la federazione musulmano-croata e insomma i serbi. E anche a livello artistico, a livello di monumenti, il memoriale di Srebrenica, ad esempio, un'offesa per i serbi, mentre tutte le croci che fanno loro, magari dove sono morti dei serbi, sono un'offesa per i musulmani, insomma si fa questo gioco, no? E siccome in Bosnia c'è questo umorismo molto nero, adesso c'è una nuova corrente artistica, che è divertentissima, che cerca di creare qualcosa di unitario. E ci hanno pensato a qualcosa di unitario, e alla fine hanno fatto una statua di Bruce Lee. Era l'unica cosa che si poteva fare perché non c'era niente che ci unisse, cioè che ci poteva unire oggigiorno. E un'altra cosa che hanno fatto a Sarajevo è stato un grande monumento di una lattina di carne che ci arrivava dal Canada, di solito scaduta, cioè sembrava carne per i cani. E c'è questa enorme, altissima, un grande ringraziamento, no, alla comunità mondiale in questo caso, per questa carne che la gente tipo vomitava, non riusciva a mangiarla, ma moriva di fame, quindi se la mangiava un po' la vomitava, perché era una cosa davvero disgustosa. Mladic e quelli dell'ONU brindavano la conquista di Srebrenica. Sarebbe un perfetto domatore di pulci, Mladic. Un incantevole imbonitore. Vivo a Roma da qualche mese, signori. È il mio periodo fortunato, a quanto pare. Nel giro di poche settimane ho trovato il lavoro e la casa. E mi è sembrato pure semplice. Si vede, signori, che Dio ha iniziato a rimborsarmi. Guardo l'immagine online di quello che sta succedendo ora al di là del mare. Altre 500 bare, signori, altre 500 bare da seppellire nel memoriale di Srebrenica. Donne con i foulard chinate sulle verdi bare pregano. Mia madre è là. Finalmente, signori, finalmente hanno potuto seppellire lo zio, perché sono stati ritrovati il cranio e il braccio. Sguardo fisso nel nulla, immagini mentali in movimento. Vedo mio zio, signori, il corpo grosso mentre torna dalla pesca con gli stivali alti e verdi. Il volto sorridente, signori, lo vedo correre, portare in giro i cani. Cerco di sentirne la voce, signori, ma non la ricordo più. Un elefante mi si siede sul cuore, signori, mentre le parole cranio e braccio si vanno ad associare a quell'immagine viva. Non è dolore semplice quello che provo, signori, è una sofferenza fisica, perché il cuore si agita sotto l'elefante, l'aria fatica ad arrivare ai polmoni. Io tremo, signori, intorno a me tutto trema, io mi incazzo. Sbatto il pugno contro il muro per farmi male, signori, per vedere il mio sangue sgorgare e sporcare un po' di più questo sporco mondo. Fumo, signori, nulla sapore se non il mio sangue che lecco dalle dita e sento il dolore della ferita. Guardo di nuovo il video realtà girato dai serbi mentre fucilavano, signori, alcuni musulmani intorno alla mia città. Signori, era una giornata di sole, una bellissima giornata di sole. Le vittime sono sdraiate nell'erba pancia in giù. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, guarda, guarda, guarda, guarda questo come trema. Guarda questo come trema, dice un serbo. e i raggi del sole si infiltrano tra le gambe, signori, tra le gambe dei serbi, tra le loro armi, e vanno a illuminare l'erba che diventa di un verde psichedelico, meraviglioso. Avete presente, signori, l'erba fresca ai lati dei ruscelli? Ecco, quel tipo d'erba. Poi i colpi, signori, sono partiti, si sono conficcati nella carne al macello, signori, signori, signori. La batteria del serbo, signori, la batteria del serbo che riprendeva, signori, si è spenta e non ho potuto vedere quel meraviglioso verde diventare rosso. Si avvisa la gentile clientela che stiamo per chiudere. Vi preghiamo di avvicinarvi alle casse numerate. La batteria del serbo. Piazza Affari riaprirà come di consueto domani per illuminare un'altra giornata ai nostri cari cittadini, tutti casa e spesa. La batteria. Quanti siete? La batteria. Cosa portate? Dove andate? Un fiorino. Alan Zamboni. Sono stati bravi, hanno affondato molto bene le radici, per cui insomma, al posto di Tito adesso ci sono loro, al posto dei cappellini che portavamo una volta con la stella rossa, adesso c'è chi porta le cocarde, c'è chi porta la mezzaluna con la stellina, e sono già stati, noi siamo già nella fase in cui è tutto stato già sostituito, sostituirlo ulteriormente per molti significa il meglio, no? Perché si dice, allora magari torna Tito o qualcuno, un seguace di Tito. Non credo che sarà così, perché davvero non c'è spazio per altro rispetto a quello che adesso in Bosnia regna.